Allora, buonasera a tutte e a tutti. Il seminario di questa sera, come sapete, è dedicato a modernità e comunicazione, è uno dei, degli ultimi appuntamenti di questo lungo ciclo seminariale sulla modernità, che ha avuto diversi ospiti italiani e stranieri e che pensiamo possa e debba dare poi il risultato a una pubblicazione abbastanza rilevante. Stasera abbiamo un relatore che non ha bisogno proprio in nessun caso di presentazione, sia perché è di casa in fondazione, sia perché è uno dei massimi esperti di comunicazione a livello non solo italiano ma internazionale. Conoscete tutti Alberto Abruzzese, che tiene la cattedra di sociologia dei processi culturali e comunicativi allo IULM di Milano, è stato a lungo professore a Napoli, poi professore alla Sapienza di Roma, responsabile scientifico del Master in Management dei processi creativi, preside della Facoltà di Turismo, Cultura e Territorio, prorettore allo sviluppo, innovazione e rapporti internazionali, come volete, quindi i titoli accademici sono tanti. È stato a lungo uno degli animatori, ed è tuttora uno degli animatori, del dibattito anche europeo sui temi della comunicazione. Ricordo una serie di confronti che abbiamo avuto anche con personaggi che ahimè non sono più tra noi, come Jean Baudrillard, come Michel Maffesoli, è ancora tra noi, Jean Baudrillard, salute. In perfetta salute, eccetera, però Jean Baudrillard non c'è più. Tra i vari saggi che lui ha pubblicato, è un numero enorme di pubblicazioni, ricordo Forme estetiche e società di massa, insomma si badi bene l'anno, 1973, Sociologia della letteratura, dico tra parentesi la competenza letteraria di Alberto è notevolissima, e ricordo anche molti convegni che lo hanno visto protagonista con Alberto Sorrosa e con altri, poi Verso una sociologia del lavoro intellettuale, Liguori, 1980, Lessico della comunicazione, Meltemi, 2004, Sociologie della comunicazione, con Mancini, La Terza, 2007. Quindi è molto importante l'attenzione che Alberto ha riservato alle forme multimediali di formazione della soggettività nell'ambito della comunicazione. Dunque la sua preparazione, che non soltanto proiettata sull'attualità, ma anche capace di operare delle coltissime genealogie delle forme di comunicazione moderna, lo rende per noi un contributore assolutamente prezioso, e quindi lo vogliamo ascoltare anche per questo. Bene, dopo questa presentazione, sicuramente ha detto più cose Giacomo di quelle che riuscirò a dire io, e grazie di avermi invitato. Il tema è gigantesco e la mia vita milanese ultimamente mi ha reso purtroppo molto difficile la frequenza degli incontri alla fondazione, e quindi non ho esempi precedenti di come siano stati trattati temi così, no? A cornice larghissima, come appunto un tema di questo genere, modernità e comunicazione. Quindi procederò in un modo molto schematico, sperando che il procedere in modo schematico e forse anche un poco ondivago, ma appunto siamo in tempi di navigazione, quindi l'ondivago va abbastanza bene, e spero che possa semmai favorire un minimo di scambio, diciamo, di posizioni, essendo anche qui presenti, diciamo, persone che in quanto a modernità, ricerca sulla modernità, eccetera, hanno detto e hanno sicuramente da dire. Però immaginiamoci che non tutti qui mi conoscono e quindi lo dico questo perché qui ci sono molti amici presenti, è inutile, no? Nasconderlo, e quindi dividerò il mio intervento in due, cioè avrò in testa, diciamo, mentre parlo, qualcuno che non ha frequentato molto, non mi ha frequentato molto, e qualchedun altro invece che da tempo mi conforta con la sua attenzione. Tutti e due? Ah, perché c'è la registrazione. È come che dà. Ah, no, ma figuriamoci, con la sua attenzione. E allora quindi intanto una prima, naturalmente, distinzione che forse si scioglierà man mano nel discorso, ma le parole che usiamo sono cariche di significato, ma probabilmente sono sempre meno condivise da ciascuno di noi, ciascuno ormai le sta usando in un modo del tutto particolare, quindi forse dire modernità ormai è un qualcosa di estremamente impreciso, indefinito, e sicuramente, essendo probabilmente un pochino più competente sulla storia della parola comunicazione che quella di modernità, altrettanto accade per quanto riguarda il termine comunicazione. Ambizione, ma insomma, se potessi adesso subito spararne una del discorso che voglio fare, ambizione del discorso, beh, insomma, che forse modernità e comunicazione, aggiungerei tecnologica, sono la stessa cosa. Potrebbe essere il primo tema da discutere. A me risulta abbastanza facile, e poi vedremo magari perché, se ci riesco a dirlo, ma naturalmente questa invece è un'affermazione non condivisa, prevalentemente non condivisa, diciamo. Il nostro sapere funziona in modo tale, questo è davvero un sapere moderno, per cui definita la cornice la modernità, poi si prendono in esame tutti altri aspetti che vengono in qualche modo visti come strumenti, diciamo, della modernità stessa. Per me è importante capire invece che se dobbiamo definire quella che è la vita moderna, questa vita moderna è inconcepibile se non in un qualche modo coincidente, diciamo, non letteralmente coincidente, perfettamente, crimine perfetto di Baudrillard, tanto per cominciare a ricordare i defunti, poi intanto ricorderemo i vivi, è esattamente la copia perfetta, l'identità perfetta, diciamo, il terreno della comunicazione tecnologica di quello che è il moderno, il tempo moderno. Dico queste cose che, appunto, ripeto, sono scarsamente condivise in genere, e le dico anche perché continuamente, o sempre di più, semmai all'inizio non sapevo bene come di che cosa, diciamo, di che cosa parlassi, cioè, nel senso, venivo l'ha ricordato Giacomo, venivo dalla letteratura, avevo percorsi totalmente diversi, mi ero educato in qualche modo a quel pensiero marxiano, diciamo, cui mi avevano introdotto, appunto, Azor Rosa, Tronti, eccetera, quando la sorte, in qualche modo, il mio gusto mi ha portato a occuparmi piuttosto di comunicazione. All'inizio ancora non sapevo di che metodo mi sarei servito, che cosa. Ovviamente era inevitabile incontrarsi con la sociologia, che pure era disciplina che io avevo frequentato poco in passato, e però progressivamente, una volta avvenuto l'incontro con la sociologia, in qualche modo ho sempre, diciamo, tentato di sfuggire alla sociologia e di ritenere che la sociologia fosse una disciplina radicata nella modernità, proprio nel fondamento della modernità, coesistente e compartecipe dei processi che hanno fondato il tempo moderno, legata alla società moderna, al costituirsi della società moderna, e che in qualche modo, in quanto proprio disciplina storicamente determinata, socialmente determinata, disciplina destinata a entrare in crisi, in obsolescenza, quanto più, diciamo, si passava da una società di massa a una società diversa da quella di massa, che si può definire in tanti modi, che sono il post-industriale, che sono il post-moderno, che sono appunto il passaggio dai mass media alla multimedialità. e ai media digitali, oppure detta proprio in una frase, perché ormai è una terminologia divenuta d'uso comune dalla società di massa dalla società tout court, diciamo, alla società delle reti. Qui qualcuno c'è tra gli amici che mi fecero tempo addietro, ormai già comincia a essere tanto anche quel tempo, un libricino di celebrazione dei miei 60 anni. Giacomo ha ricordato che io appunto sono uscito con Forme Estetiche e Società di Massa nel 73, sì. E non ero nemmeno un giovincello quando sono uscito, quindi insomma, io restai molto, molto commosso di quella raccolta di insomma, pensieri intorno a me stesso, lusingato, eccetera, e più tardi, però restai anche muto, insomma, poi non riuscivo mai a ringraziare tutti, erano talmente tanti che insomma, quindi a un certo punto ho dedicato ai miei amici, che erano appunto quelli, lo dico, cioè, e molti di questi, credo che poi sia sfuggita questa cosa, a una postfazione che io ho scritto dopo quella vicenda, una postfazione a un mio romanzetto che già segnava l'ingresso nella mia senescenza, che si intitola Anemia, e che era dedicato a un vampiro comunista, e in questa postfazione direi si colloca un poco, diciamo, una svolta, che è quella che poi io, da cui dovrei partire in qualche modo se volessi essere breve, ma forse sarebbe troppo scura, è una svolta sul tema che mi avete invitato a trattare, e cioè sul rapporto appunto tra media e modernità. E in questa appunto, forse non ci metto troppo a leggere, in questa postfazione io dicevo, la cito perché uno dei percorsi che vorrei riuscire a seguire è proprio quello di contrapporre una sociologia o una mediologia dell'immaginario appunto a invece una teoria sociale, diciamo, ecco. Questo è un elemento secondo me chiave, diciamo, su cui ci si deve oggi intrattenere se si vuole dare al discorso una prospettiva che non sia legata semplicemente all'aspetto teoretico delle cose. Io qui scrivevo, ma ci si può anche non accontentare del fatto che la nostra felicità coincida senza alcun scarto, senza alcun trauma che non faccia parte della messa in scena occidentale, con la disperazione degli altri, percepita o meno che sia da parte nostra. Potremmo cominciare ad avere un qualche disgusto della padronanza con cui metabolizziamo la vita, morte e miracoli del presente. Allora pensare al vampiro come irruzione nell'aldilà dei saperi, delle strategie, della storia e della società potrebbe spingersi a non sentire la sua impossibilità e la sua presunzione biotecnologica solo nelle forme di un'estetica delle passioni. Può introdurci a un'etica e una politica dei sensi, alla costruzione di una sensibilità che non tolleri la percezione di una vita umana in cui il dolore è il tratto più comune, ordinario, immutabile. Una vita tanto ingiusta da aver paura di nascervi. Ecco di nuovo un discorso che si avvicina alla questione su come formare individui capaci di prendersi a carico la responsabilità dei mondi in cui abitare il mondo. Ve l'ho letta perché in qualche modo uno dei modi con cui si potrebbe, diciamo, introdurre un discorso sulla modernità è quello anche relativo al fatto che è la modernità che pone il problema della responsabilità e dell'etica politica. Ciao. Dell'etica politica. E quindi queste cose che scrivevo cominciavano a essere molto, come dire, molto prese, ecco, da un problema fondamentale, che nel passaggio da modernità a postmodernità accadono tante cose, accadono anche delle cose straordinarie e meravigliose, ma in qualche modo è anche, diciamo, in questa seconda, no? Chiamiamola ultima, forse non ce ne libereremo mai, ma insomma in questa parte finale, no, della modernità, è la caduta verticale del senso di responsabilità. E questo mi pare essere anche un modo per restare fermi sull'attualità, restare fermi sul contesto italiano, ma questo, diciamo, appunto, forse alla fine riesco a dirlo. Allora, dicevo, alla sociologia ho preferito sostituire un approccio di tipo diverso all'approccio sociologico, quello mediologico, cioè ritenere che la sociologia è la disciplina appunto nata con la costruzione della società moderna e che la mediologia è la disciplina che si prende a carico il passaggio, diciamo, dalla società prodotta, diciamo, dal modo di produzione, dai modelli organizzativi dell'industria a un'altra fase in cui appunto l'abitare, il modo d'essere, il modo di abitare delle società è tutto interno, diciamo, all'interno dei media. Questo è uno dei passaggi più, forse, che non sempre nemmeno mi riesce di dire, ma che forse nel corso della cosa riuscirò a chiarire meglio. Allora, ovviamente, tutto questo discorso ha anche un po' di ragione, un po' di tempo fa eravamo meno proprio nel turbinio del dibattito sul rapporto tra media della società di massa e media delle società delle reti. Oggi siamo pienamente dentro questo dibattito, e vi farò qualche riferimento successivo, ma diciamo appunto tra gli amici, che ovviamente non è una, insomma, che mi sarebbe piaciuto poter incontrare in un'occasione come questa. Per esempio c'è Stefano Rodotà, che è una delle persone che più si sono riferite al rapporto tra diritto e sfondamento delle regole della società civile dentro una dimensione digitale che rimette in discussione sostanzialmente tutto. Questo rapporto tra media della società di massa e media della società delle reti può essere affrontato, diciamo, come conflitto tra le teorie classiche sulla comunicazione e le teorie emergenti, diciamo, oggi all'interno dei mezzi di comunicazione. Le teorie classiche sulla comunicazione sono quelle in prevalenza, diciamo, legate a una definizione della comunicazione dentro una cornice razional-funzionalista, e quindi la comunicazione come messaggio, la comunicazione come effetti della comunicazione, eccetera, eccetera. Se appunto, naturalmente è inutile dirlo, questo naturalmente fa riferimento a questo modo di intendere la comunicazione, ha le sue radici nel cuore della modernità e quindi, diciamo, in quella riproposizione del modello europeo, diciamo, della società industriale in ambito soprattutto inglese, eccetera, e che si ripropone in America e che appunto dà luogo in America a una prima grande formulazione delle teorie delle comunicazioni di masse orientate, come del resto resterà a lungo ed ancora tutt'oggi in gran parte, orientate sul problema classico di come si possono misurare e oltretutto produrre effetti dei media in due campi sostanzialmente, quello delle merci del mercato e l'altro della politica del consenso. Se si tenta di fare, ringrazio Giacomo, avete detto che ho cercato sempre un poco di fare una genealogia, no, della comunicazione, dei mezzi di comunicazione, e questo per me era importante, anche perché in qualche modo nell'incertezza metodologica che vi ho detto, credo nelle informe estetiche e sociali di massa, ma molto, molto a lungo, forse solo adesso sta accadendo qualcosa dentro di me che non so bene definire, ma che è diverso da quel filone. Io facevo della storia dei media, storia dell'industria culturale, ricavavo dei momenti di sviluppo della storia dei media e, cogliendo alcune caratteristiche di quei nodi dello sviluppo dei media, poi cercavo di tirarne fuori un qualcosa, un senso, diciamo, ma poi sostanzialmente, insomma, era la ricostruzione di tracce che iniziavano con la prima rivoluzione industriale e arrivavano sino ai giorni nostri. In questo senso, quindi, rispetto ai classici delle teorie degli effetti, della comunicazione, eccetera, una bibliografia in gran parte angloamericana, ma non solo angloamericana, e non tutta poi ossessionata paradigma razional-funzionalista, ci sono anche delle cose molto intelligenti, di dentro un personaggio che ormai è un po' dimenticato, che è Raymond Williams, è un personaggio ricchissimo di indicazioni in questo senso e che ha anticipato moltissime delle cose che poi sono state dette soprattutto sulla televisione, diciamo, e forse persino sul punto di rottura della televisione. Ma insomma è evidente che se ci serviamo di altri indicatori, l'analisi della comunicazione ci porta a ritenere che la comunicazione non sia appunto semplicemente il trasferimento di informazioni da una stazione A a una stazione B, e semmai l'effetto di ritorno dalla stazione B poi alla stazione A, quindi al massimo diciamo all'interno di una sorta di scambio, diciamo, no? Ma non più di questo, e quindi sia comunque dentro un paradigma frontale, diciamolo così, frontale e unidirezionale, ma seguendo un'altra strada, un'altra vicenda che va da Baudelaire a Baudrillard, tanto per appunto riprendere sempre, per citare i defunti, tutti e due, su questo non abbiamo dubbi, passando per autori straordinari che non sempre sono stati inseriti, questo diciamo sicuramente è una grande responsabilità, oggi questo insomma vale di meno, ma sicuramente anni fa era interdetto, diciamo, l'uso di alcune figure della cultura europea all'interno di un discorso sociologico e di un discorso sociologico sui media, come era interdetto per esempio, dato che c'è era interdetto lavorare sulle avanguardie storiche, diciamo, no? Per ragionare sui media. Il filone naturalmente quindi è, se partiamo da Baudelaire per arrivare a Baudrillard, è naturalmente la figura centrale di Nietzsche, direi, spiego subito, ma sto veramente facendo la storia per francobolli, ma insomma, no? Utilizzando di Nietzsche quel pensiero profondo, profondamente antiumanistico e antireligioso, e poi una figura straordinaria ancora, che serve moltissimo oggi per, direi, quella letteratura non solo, anzi pochissimo sociologica e poco anche mediologica, ma che ha per esempio in una figura come il nostro Roberto Esposito. Roberto Esposito che è importante, che è questa contrapposizione, diciamo, questo ragionamento fondato sulla differenza tra corpo e carne, che a me sembra un elemento di grande interesse e che poi forse riesco a riprendere. Poi due figure chiave, proprio Benjamin e McLuhan, figure che sono state mantenute distanti per lungo tempo, non come se non avessero nulla a che vedere, infatti non hanno nulla a che vedere, cioè nel senso che non è che McLuhan riprenda, diciamo, no, qualcosa di Benjamin, ma è veramente un po' come se ci fosse stata una reincarnazione, nel senso c'è un certo numero di anni tra la morte di Benjamin e l'attività intellettuale di McLuhan, che è intorno agli anni 50, ai primi anni 50, ed è sorprendente come in qualche modo, no, si muovano, diciamo, su un piano analogo. Qui che cos'è che emerge della comunicazione? Della comunicazione emerge il fatto che non possa essere ritenuta come appunto un dispositivo che all'interno di un contesto sociale, all'interno di un ambiente, anzi diciamo meglio, funziona per determinati scopi, ma invece la comunicazione direttamente è l'essere in comune, è la relazione. Ed è quindi sostanzialmente proprio l'abitare, è il territorio su cui abitiamo, in cui abitiamo. E quindi la frase, il medium, nel messaggio di McLuhan porta, diciamo, direttamente verso questa direzione. E una storia della comunicazione finisce per diventare una storia delle piattaforme espressive che dalla rivoluzione, prima rivoluzione industriale sino ai giorni nostri, hanno appunto funzionato come forme dell'abitare. Quindi, diciamo, la metropoli, nella fase culminante del primo processo di industrializzazione, il territorio metropolitano, che diventa un territorio di relazioni, diciamo, infinitamente diverso dai territori precedenti, E da quel momento, via via, attraverso, andando a larghi passaggi, attraverso gli schermi, e quindi la comunicazione dello schermo, quella ancora sostanzialmente incorniciata del cinema e poi quella di flusso della televisione, grandi differenze, ma sostanzialmente ancora una volta fondate sul dispositivo dello schermo e quindi su questo progressivo passaggio dall'abitare sul suolo all'abitare, diciamo, nella dimensione immateriale dello schermo. Quindi comunicazione come appunto immersione, come immersione. Dato che, insomma, ridendo e scherzando, quanto tempo ho? Dammi una misura. Quando vuoi. Puoi parlare anche. Una mezz'oretta ancora c'è? Sì, ancora mezz'ora. Sì. Ce la fate? Allora. Sto più vicino, così si sente meglio se parlo. Bene, allora io lascerei, semplicemente direi questo, mi sembra che per quanto questo ancora accada un poco, o comunque nel modo con cui trattiamo i new media molto spesso si ripropongano temi, gli stessi temi, le stesse dicotomie, le stesse ideologie, eccetera, che hanno caratterizzato il dibattito e lo scontro teorico, diciamo, nell'ambito della sociologia dei mass media, invece che dei personal media e dei media digitali, lascerei alle spalle, diciamo, anche i risultati interessanti della sociologia della cultura di massa. Direi che in questo senso, sempre per volere fare un poco di ricostruzione, nell'ambito italiano abbiamo faticato persino in una prima fase ad accogliere il pensiero di Morin, e Morin era personaggio invece che introduceva degli elementi estremamente interessanti. Qual era sostanzialmente quello che introduceva? Introduceva l'idea che i media fossero sostanzialmente la riproposizione nella società moderna di quella esperienza simbolico-religiosa che nelle società premoderne garantiva dei processi di identificazione. Quindi, mentre i nostri dibattiti erano sempre concentrati sul fatto che i media tecnologici legati al mercato, centralizzati, unidirezionali, spettacolari, eccetera, tutto vero, però comunque erano al servizio dei processi di industrializzazione e di mercificazione, quindi erano il veicolo dei processi di deterioramento del tessuto sociale secondo lo schema tradizionale del rapporto tra società e comunità, e quindi tutto ciò che è comunitario viene distrutto dal meccanismo societario, e i fattori di distruzione del meccanismo societario sono appunto la tecnologia, l'industria e il mercato. La visione di Morin relativamente all'industria culturale era totalmente diversa ed era sicuramente liberatoria, diciamo, no? Rispetto ai vincoli ideologici che appesantivano. Questo problema è restato un problema all'interno del quale anche i più intelligenti, diciamo, della sociologia, non sempre dei media, proprio della sociologia, sono restati, e cioè, tanto per fare due nomi autorevoli, Habermas e Enzensberger, i quali in qualche modo nel loro percorso hanno sempre oscillato un poco tra l'idea che i media fossero degli strumenti di democratizzazione e invece l'idea che i media fossero degli strumenti invece di inibizione della democrazia, di coercizione, diciamo. Se arriviamo al dibattito attuale, e quindi quel dibattito che inizialmente ha salutato nell'avvento di internet, della società, delle reti, una liberazione dai vincoli societari tradizionali, anche qui ripeto, se avendo più tempo, magari scambiandoci due chiacchiere dopo, è proprio il passaggio, forse questo riesco a tirarlo fuori dopo, sull'idea che la comunicazione sia un territorio, no? E che la comunicazione sia un territorio costruito naturalmente dai media, ma contemporaneamente tecnologici, ma contemporaneamente, sempre McLuhan con la tecnologia come protesi del corpo umano, ma contemporaneamente risultato, diciamo, della tensione, dell'abitare umano, in questo dibattito scatenato dall'avvento delle reti, appunto, c'è una prima fase tendenzialmente in cui tendenzialmente proprio le culture più critiche nei confronti dei sistemi di potere occidentali manifestano un interesse per le reti. Le reti promettono, diciamo, una liberazione dai vincoli, da tanti vincoli, sostanzialmente da quei vincoli appunto che sono legati alla storia della modernità, del pensiero moderno, delle istituzioni moderne e dei regimi politici e etici della modernità, quindi sostanzialmente tutto quello che noi possiamo raccogliere all'interno, diciamo, dello Stato nazionale. Le reti appunto sono un territorio che sfondano lo Stato, le geopolitiche. Naturalmente lì c'era un po' una svista, ovviamente non si coglieva il fatto che probabilmente lo Stato nazionale era già in crisi di suo e che le dinamiche di mondializzazione già precedenti a quelle che poi noi abbiamo chiamato globalizzazione erano andate ormai molto avanti ed erano loro stesse a sgretolare, diciamo, la forza dei confini nazionali. Però comunque, insomma, le reti apparivano davvero un luogo e oltretutto proprio sociologicamente, storicamente, viene popolato da persone che non sono, che non sono la stessa cosa, del cittadino, del soggetto moderno per eccellenza. Hanno diversi valori, manifestano diversi desideri, amano appunto la mobilità, cominciano a indicare che il processo è inverso a quello che ha costruito la modernità e quindi va invece di ritorno, è un effetto di ritorno sulle origini e semmai appunto sulla dimensione dei nomadi, dei ricercatori, dei raccoglitori, eccetera. Quello che qui vorrei ricordare, perché se il discorso è modernità e comunicazione, sappiamo bene che ci sono alcuni punti chiave della modernità che vanno affrontati, che naturalmente io non affronto, ma qui non ho tempo di affrontare, ma uno sicuramente fondamentale, e che è questo, cioè che è il concetto di rivoluzione, insomma. Queste prime manifestazioni in positivo dell'avvento delle reti si rovesciano nel giro di poco tempo, invece, nelle stesse persone, forse Stefano Rodotà è quello che ha cercato di mantenersi sempre più equilibrato tra una posizione e l'altra, che è un equilibrio meritorio, diciamo, perché però contemporaneamente che è poi il suo vincolo stesso, no? Quello di restare con i piedi su una staffa e sull'altra, mentre invece gli altri, quelli che si erano buttati con molto più slancio, diciamo, no? Su una visione positiva di Internet, su questa quindi possibilità rivoluzionaria di Internet, sul fatto che Internet potesse, che la navigazione, diciamo, multitudinaria nella rete potesse essere un elemento rivoluzionario rispetto agli statuti della modernità, a un certo punto hanno cominciato a manifestare un parere diverso. La figura in questo senso più interessante è Formenti, no? È stato quello che ha inaugurato in Italia una letteratura sulla rete, estremamente competente, molto intelligente, no? E che a un certo punto ha cominciato a dire no, qua invece no, la rete è esattamente lo strumento con cui, no, il capitale, l'imperialismo occidentale, no, eccetera, possono procedere avanti. Qui butto lì, ma non posso svilupparla, ma insomma butto lì una cosa che forse potrebbe essere però discussa, e cioè in questo dibattito quello che emerge è il fatto sicuramente che noi siamo legati a qualcosa che è tipicamente moderno, e cioè al concetto di rivoluzione. Cioè noi, quando diciamo, usiamo la parola rivoluzione, ci scattano dentro due eventi. Uno, la rivoluzione industriale. Qualcosa tutto sommato che viene raccontata come processo molto rapido, rapidissimo, più rapido probabilmente di quello che è stato, per poi quando andiamo a leggerci i libri vediamo che insomma, no? Quella rivoluzione è una rivoluzione che comincia nel 400, nel 300 e possiamo ancora andare più indietro, no? Quindi è un processo assai più lento di quello con cui viene presentato. E poi soprattutto la rivoluzione del 17, Cioè quello, la parola rivoluzione per noi è il rovesciamento del potere in tempi rapidi. L'idea che le reti possano realizzare questo, in qualche modo, diciamo, come dire, è evidente che non regge, perché la trasformazione profondissima del territorio delle reti e dei linguaggi digitali, che è una trasformazione proprio di tipo antropologico, psicosomatico, eccetera, ma sono quelle tipiche trasformazioni che non si risolvono nel giro di un tempo breve, ma si risolvono nel giro di un tempo lunghissimo, e che, se debbono trovare una analogia, non la trovano nel passaggio tra società tradizionali e società industriale, ma la trovano nei passaggi di incredibile maggiore lunghezza che hanno avuto il passaggio, ad esempio, appunto, da una società nomadica a una società residenziale. È lì che dobbiamo trovare, no, un'analogia, semmai. Naturalmente tutto si è accelerato, non ci metteremo milioni di anni per passare da una, no, da una condizione psicosomatica a un'altra, però certo non bisogna ragionare attendendoci, diciamo, la rivoluzione nei termini che la modernità ci ha suggerito. Adesso veniamo a un po' chiudere il discorso. Sì. Beh, oddio. Vabbè. E arriviamo alla nostra situazione attuale. Non so dove ficcarla, ma ve la anticipo adesso. Forse non è questo il momento giusto, magari mi viene dopo. Però sono stato colpito da leggermi lo stralcio che il Foglio ci ha dato del discorso di Tremonti a Bruxelles, il quale fa un ragionamento molto, molto moderato, ovviamente molto sospetto, no? Ma in qualche modo quello che, di cui la cultura di sinistra si dovrebbe liberare è il sospetto su quello che, no, viene detto, ma semmai dovrebbe essere molto attenta, diciamo, a quello che viene detto, per poter poi ragionarci sopra. Quello che dice Tremonti è una cosa interessante, perché lui sostanzialmente fa riferimento ai trattati dell'Unione Europea e dice: basta leggerli dall'incipit, a partire dai primi articoli, e li elenca, sono tutto quello che riguarda i diritti umani sostanzialmente, libertà, democrazia, uguaglianza, dignità umana, diritti della persona, benessere, sviluppo sostenibile, economia sociale, di mercato, fine delle divisioni, progresso futuro parallelo, eccetera, eccetera. E dice: bene, questo è dentro, è scritto nel trattato. Però è scritto sostanzialmente avendo in mente un regime di buona sorte. Cioè ha in mente il bene, non il male. Parte dal fatto che queste regole valgano in una società del bene, non in una società del male, in un regime, appunto, di buona sorte, non di cattiva sorte. E quindi è evidente che, partendo da questo ragionamento, ripeto, e dimenticando che lo abbia detto Tremonti, ma semplicemente perché mi pare che è un discorso prepolitico, che proprio in quanto prepolitico può diventare poi politico, la questione che viene qui posta è una questione relativa al fatto che gli aspetti di crisi del sistema globale non sono aspetti di crisi forse da considerare nello stesso modo con cui il pensiero occidentale ha considerato le crisi, e cioè semplicemente come elementi necessari allo sviluppo. Ci può essere qualcosa in questa crisi che, appunto, è qualcosa di assolutamente, no, diverso da crisi periodiche, e che segna invece un collasso, un grande collasso di sistema. Anche qui credo che ci si possa riferire a quanto dicevo prima. Il concetto di crisi, come elaborato dalla modernità, è anch'esso un concetto sul breve periodo, mentre invece qui potremmo essere di fronte a una catastrofe che riguarda il lungo periodo. E quindi dovremmo essere costretti a ripensare tutto questo, cioè i concetti di libertà, democrazia, uguaglianza, dignità umana, eccetera, a ripensarli in un regime di cattiva sorte invece che di buona sorte, che è quella drammaticità del pensiero che io temo, per esempio, la cultura di sinistra elude costantemente. Qualsiasi sia la grande questione, diciamo, che venga posta, la guerra, l'aborto, tutti i grandi temi, l'ecologia, la fase genetica, cioè tutto questo, il pensiero democratico di sinistra, il pensiero democratico, poi diciamo non esiste, no? Il pensiero democratico di sinistra, sostanzialmente ragiona sempre in chiave di buona sorte, non di cattiva sorte, rifiuta un pensiero tragico, che io credo invece sia l'acquisizione fondamentale da assumere oggi. Allora, ripercorriamo un momento, perché così forse riesco a essere un poco più chiaro, partendo da però un riferimento particolare, beniaminiano, appunto la storia delle piattaforme espressive, la storia dell'abitare, di questo abitare costituito dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche dei media, e quindi questo passaggio che dalla metropoli arriva alle reti, e che tra l'altro costringe, non è a nulla, gli altri territori, no? I territori preesistenti, ma in qualche modo li ricicla dentro il territorio dominante, che è diverso da quello che in genere viene detto, cioè che tutti i media poi sopravvivono, ma non è proprio così, non è che i media sopravvivono accanto agli altri, no, i media sopravvivono, ma ridefiniti radicalmente dal medium egemone. E questo è importante, per cui vuol dire che l'esperienza poi viene vissuta dentro quel territorio egemone. Allora, e quindi questa progressione è, abbiamo fatto riferimento appunto al periodo delle, il periodo delle comunità di raccoglitori e nomadi, dove domina il sacro, e anche qui altra questione molto importante se si vuole ragionare sul rapporto tra modernità e comunicazione, dal momento che l'essere in comunicazione, la comunità si fonda sempre su alcuni rituali, diciamo, che sono rituali appunto che hanno in sé qualcosa che può essere o relativo al sacro o relativo al religioso, e distinguere, sapere distinguere tra la dimensione del sacro e la dimensione del religioso, io credo che sia una questione fondamentale. Fondamentale, che appunto motiva il fatto che riandarsi a leggere Bataille e roba del genere possa essere molto utile. Quella fase, via via, si passa dal sacro a delle forme di fondazione, delle fondazioni mitico-religiose dell'abitare, fondazioni che sono legate al fatto che l'abitare si costituisce dentro le mura. L'abitare inizia nella sua dimensione religiosa, cioè di legame, di vincolo e di comunità, inizia con la costruzione di mura, con la costruzione di confini. Quindi da una dimensione dell'abitare che ancora non è esperienza del confine, ma semmai è esperienza dell'illimitato, e che comporta appunto il sacro perché è inspiegabile, si arriva invece a voler razionalizzare l'operazione, fondarla e accingere di mura il, questo meccanismo è poi sostanzialmente il meccanismo che per passaggi successivi porta alla polis come, no? Come delimitazione del territorio, porta alla civitas come capacità di estensione di quella delimitazione, e via via attraverso sull'asse del ebraismo e del cristianesimo fonda in qualche modo le radici della modernità e si costituisce perfettamente nell'idea di città rinascimentale. La città chiusa, la città che oltre le mura c'ha lo sconosciuto, il nemico, lo straniero, il lupo, l'altro e così via, e che costruisce la sua razionalità e il suo significato nel fatto di essere chiuso da mura con un suo centro in cui ci sono i poteri della città, quello religioso e quello invece del principe, e il mercato delle merci. Avere in mente e naturalmente articolare un po' più rapidamente, no? Un po' più riccamente, diciamo, con lo schemino che vi sto proponendo, serve a capire appunto l'esperienza metropolitana. L'esperienza metropolitana è la caduta dei confini. Tra i nomi che ho detto, l'altro impagabile personaggio che va sempre rievocato è Simmel, naturalmente. Ora, Che cosa introduce l'esperienza? Qui dicevo che il riferimento è beniaminiano. Cioè, mentre la costruzione dell'abitare culmina con il principio dell'attenzione, il processo metropolitano dà inizio al principio della distrazione. Cioè, in qualche modo, al fatto che per abitare un luogo si è continuamente distratti altrove. In questo senso, la frequenza con cui torna sino a Baudrillard il pensiero neoplatonico, platonico-neoplatonico, è significativa, perché in qualche modo il platonismo dava un'indicazione preziosa, cioè quella di dire: guardate che la realtà che ci avete qui di fronte non è la realtà. Il processo a cui noi assistiamo dalla metropolizzazione in poi è esattamente questo: quello che abbiamo di fronte e che calchiamo non è la realtà. Il problema è che il platonismo ci aggiunge poi una pulsione, una necessità metafisica che naturalmente invece il tentativo di recuperare l'infranto attraverso la costituzione invece, no? Il costruirsi di una verità altra, ed è il problema di tutta la modernità, la tarda modernità, la postmodernità, il dibattito, dei moderni, eccetera. Ecco, quel regime di distrazione che viene inaugurato dalla metropoli ha una lunga storia, entra a far parte, delle dialettiche della modernità, e quindi di tutte le diverse declinazioni con cui viene messo in conflitto, ma appunto un conflitto che produca sintesi e superamento, il rapporto tra comunità e società, o se volete appunto tra realtà e finzione, questa linea porta direttamente, l'ho accennato prima, alla crisi delle nazioni, alla globalizzazione, a questo scenario che noi abbiamo di un imperialismo che ormai si rivela essere la forma possibile di costruzione sociale, e tanto forma possibile da essere essa stessa deterritorializzata, cioè da poter passare di mano al di là della storia. Cioè, quando si è cominciato a decretare il principio della fine della storia, si decretava il principio della fine dell'imperialismo storico. Questo tutta la letteratura che amici nostri hanno sviluppato ce lo hanno anche poi in qualche modo detto in modo abbastanza chiaro. Ecco, dentro questo scenario per me può avere senso ragionare sul ci sono, forse in 5 minuti ce la faccio, ragionare sul senso di responsabilità. Questo tanto per appunto fare riferimento al contesto italiano, ma fare riferimento al contesto italiano dicendo che, a mio modo di vedere, sbagliamo nel pensare che il contesto italiano sia l'aberrazione rispetto al mondo. Sono portato a credere molto di più che il contesto italiano sia, come molti hanno spesso detto, ma che poi ogni tanto ci si dimentica di ripetere, un laboratorio. Un incredibile laboratorio per tanti fatti che adesso non possiamo ricostruire, ma un incredibile laboratorio che dimostra quanto la crisi di responsabilità, quindi vogliamo dire in un altro modo, la o assenza o vuotezza delle classi dirigenti, è un fatto che può riguardare sistemi abbastanza in collasso come potrebbe essere forse il nostro, ma anche sistemi apparentemente potenti, sistemi che noi definiamo sani, sistemi che tra l'altro molto spesso noi evochiamo per dire: guarda loro come sono bravi e noi che schifo che siamo. Mentre invece credo che le ragioni che stanno incrinando la possibilità, capacità di creare classi dirigenti siano ragioni che vanno molto al di là della contingenza della nostra storia locale. E allora, se così è, un altro tema che mi è sollecitato, che credo non sia fuori della cornice del ragionamento su modernità e comunicazione, e se appunto per modernità e comunicazione mettiamo in gioco anche quello che almeno fino a un certo punto è stato il fondamento stesso della modernità, che è nata esattamente creando l'etica, borghese, quindi creando un senso di responsabilità. La proprietà obbliga, no? È proprio il fatto di essere proprietari di qualcosa, no? Obbliga, diciamo, ad averne la responsabilità, ad averne cura. Su che cosa si è formata su che cosa, diciamo, si formava una classe dirigente? Una classe dirigente si formava in due modi sostanzialmente, comunque in uno generale, e cioè attraverso l'umanesimo. È l'umanesimo che ha fondato le classi dirigenti. Il dibattito su umanisti, scienze umane e scienze dure, no? È interessantissimo, ma in qualche modo fuorviante, perché noi sappiamo che ogni qualvolta uno scienziato poi si deve assumere responsabilità di governo, ragiona con una testa da umanista, e molto spesso, ahimè, no? Pure peggio dell'umanista, no? Ne prende le frattaglie, diciamo, invece che... Quindi lì è un altro discorso quello. Allora, è l'umanesimo. Questo umanesimo, diciamo, è andato deperendo, si è andato sviluppando per un aspetto e poi è andato... Allora, l'umanesimo istituzionale, e che cosa sono? Sono la scuola e sono l'università. Quindi misurare la crisi delle istituzioni universitarie significa misurare la crisi della capacità di trasmettere contenuti umanisti alla società e quindi la capacità di produrre classi dirigenti. Non mi dilungo su che cosa l'università oggi, come l'università oggi dimostri, ma da 30 anni lo sta dimostrando, come la fiscalizzazione selvaggia e parcellizzazione selvaggia delle discipline e lo schiacciamento con i modelli dell'impresa, ma non anche lì, quanto tempo abbiamo perso a dire che com'è grave che l'università lavori per l'impresa, che si crei una cinta di sommissione, non era lì la questione, no? La questione grave è stata che a un certo punto il sapere universitario si è appiattito, in termini di contenuti, si è appiattito sull'industria. Non è una questione di soldi, è una questione proprio, ahimè purtroppo, di cultura. E allora lì è scomparso, non c'è più questa capacità. I docenti bravi come Giacomo e altri sono ormai delle finzioni sostanzialmente, no? Nel senso che sono cose straordinarie, ma non è quello che può essere, no, il rapporto tra istituzione e classe dirigente. È un'altra storia, era un'altra storia. Accanto a questo si è sviluppato, a un certo punto, in competizione con l'umanesimo istituzionale, si è sviluppato quello dei media, che chiamerei l'umanesimo sul campo, no? Questa è una distinzione interessante, ma se avessimo tempo potrebbe essere ripresa lavorando sulla contrapposizione tra due figure, tra Bourdieu e Foucault, in qualche modo. Cioè, nel senso che Bourdieu rappresenta l'umanesimo istituzionale e li possiamo mettere a raffronto perché sono tutti e due molto critici nei confronti dei sistemi di potere del capitalismo, dell'Occidente, no? Hanno in comune questa cosa. Però in qualche maniera Bourdieu è un accademico, è istituzionale e lavora sull'istituzione, e lavorando sull'istituzione ha in mente il conflitto di classe, no? Mentre invece Foucault non lavora sull'istituzione, è respinto in qualche modo o estraneo all'istituzione e lavora quindi sul desiderio. La grande differenza, secondo me, che c'è tra i due è che Foucault picchia su quello che sono fuori dell'istituzione, chi c'è? Ci sono i consumatori, ci sono quelli che vivono, diciamo, no? Cioè, quindi, continuando in questa cosa, si potrebbe dire che l'umanesimo istituzionale deperisce tenendo ancora fermo il tentativo di costruire identità e di avere come riferimento dell'identità il corpo, sia nel senso fisico, no? Del singolo soggetto, sia nel senso di corpo sociale, dall'altra parte invece questa idea del corpo e dell'identità si frantuma, si decostruisce, e quindi abbiamo quella capacità di un personaggio come Foucault di cogliere, diciamo, qualcosa che non è relativo al corpo, ma è relativo al desiderio, al desiderio e alla carne, quindi laddove il corpo, il contorno, i confini del corpo si infrangono. Sto chiudendo. Io personalmente mi sento, no, forse responsabile, non lo so, ma certo è che per anni io ho sostenuto e ho sperato che una sociologia dell'immaginario potesse in qualche modo essere una contrapposizione, una sociologia dell'immaginario contrapposta alla sociologia delle istituzioni, potesse essere una contrapposizione, quindi il lavoro astratto dell'immaginario rispetto al lavoro concreto delle istituzioni, eccetera, eccetera, eccetera, potesse essere una chiave, diciamo, no, per rimettere in moto un processo virtuoso in grado di dare un ricambio, diciamo, ai contenuti della società moderna, aprendo, diciamo, il territorio della vita quotidiana ad altro. Evidentemente questa occasione è stata perduta, diciamo. Se noi oggi osserviamo l'umanesimo sul campo, cioè quello che c'è sui giornali, quello che circola, diciamo, dai livelli più alti di confine tra università e giornali, no? E poi, cioè, ma vediamo che, insomma, no? La differenza è semplicemente che il sapere istituzionale è chiuso in sé, il sapere di mercato, lo vogliamo chiamare di consumo, è estasiato da se stesso. Cioè, noi ci divertiamo moltissimo, e io non ammetto di essere tra questi, ci divertiamo moltissimo davanti al cinema catastrofico, all'immaginario che corre, cioè, è meraviglioso, no? È il nostro meraviglioso, è un mondo meraviglioso, ma è un mondo meraviglioso che noi non possiamo più mettere in collegamento con la società, perché è schizzato via, è altrove, è totalmente altrove rispetto alla società, e quindi non può porsi il problema delle classi dirigenti, è fuori da questo problema. Allora, detto tutto questo, così la chiudo proprio veramente molto bruscamente, io penso che possa essere interessante cominciare a domandarsi se, essendo fallito il progetto di educare attraverso l'umanesimo, non sia possibile pensare oggi a un rifiuto radicale e totale dell'umanesimo. Non perché io possa pensare che rifiutando radicalmente l'umanesimo questo possa offrire strumenti, ma semplicemente pensando che forse già sarebbe tantissimo riuscire a separare quello che pensiamo da quello che facciamo. La grande usura del pensiero occidentale, la caduta verticale della credibilità di ogni politica sta avvenendo nel fatto che tra quello che viene detto e quello che viene fatto o c'è un rapporto totalmente di falsificazione o c'è una perfetta, diciamo, adesione. L'idea invece che abolendo l'umanesimo, radicalmente abolendo la grande tradizione dell'umanesimo, e quindi entrando in tematiche che qui non ho naturalmente il tempo, cioè, ma appunto mi pare che mentre il postmoderno salva, diciamo, ancora le radici dell'umanesimo, ne è una declinazione, perché naturalmente recupera ancora la possibilità di alcune dinamiche di solidarietà, insomma è come se la storia venisse rimessa in moto, no? Cercando di raschiare tutto quello che non ha funzionato, ma salvando ancora alcune delle convinzioni, diciamo, della storia, mentre appunto, no? Cioè, questo avviene qui. Dall'altra parte invece si possa tentare di privarsi totalmente dell'umanesimo, privarsi totalmente dei principi stessi dell'umanesimo e mantenere la distanza su quello che socialmente si è chiamati a fare. Io credo che questo sia, non so nemmeno dirlo, penso che questo possa essere collegato, ripeto, a un discorso che ho trascurato di fare, che forse era più inerente al tema che mi avete invitato a svolgere, cioè il fatto che questa ultima fase del rapporto tra modernità e comunicazione, essendo caratterizzata dalle reti dei linguaggi digitali, sta producendo quello che in qualche modo era stato capito benissimo dalla letteratura appunto degli anni 30, surrealista, eccetera, e quindi dallo slogan di Benjamin, sex appeal dell'inorganico, diciamo, no? A Bataille, eccetera, e che cioè c'è un processo per cui le protesi dell'essere umano si stanno estendendo al mondo, ma c'è anche quindi un processo inverso, in cui è il mondo che si sta estendendo al corpo umano e all'essere umano, e che in questa ibridazione in qualche modo quello, l'ipotesi che si può più fare è quella di ritenere l'essere umano come marginale, non più centrale. Quindi quando io dico rifiutare l'umanesimo, dico prendere atto del fatto che una delle grandi mutazioni a cui stiamo assistendo è probabilmente il fatto che l'essere umano si trova sempre meno al centro, diciamo, del mondo, è sempre più marginale rispetto al mondo. Vabbè, basta. Grazie. Bene, grazie, molte grazie ad Alberto che ha seminato molte provocazioni in questa sua conferenza, in questa sua lezione, e diciamo che ha disegnato un po' uno scenario crepuscolare, dico, ma crepuscolo alla lettera, il crepuscolo è quella luce, quel regime di mezza luce che c'è al tramonto quando il sole sta calando, oppure anche al contrario quando affiorano le prime luci dell'alba, crepuscolo e due, twilight, e non a caso ha evocato il vampiro, il vampiro come figura, cioè il vampiro è la figura del crepuscolo. E questa è la cosa, il twilight è una, io trovo anche molto, quindi naturalmente i problemi che ha posto sono tanti, ma li elenco in maniera molto schematica, ovviamente partendo dal presupposto che era già implicito nel nostro seminario, che tanto modernità che comunicazione sono due contenitori estremamente ampi, ma poi soprattutto ubiquitari, hanno una polisemia semantica enorme. Però lui ha individuato un aspetto, intanto, che la sociologia sta al moderno, è radicata nella modernità, come la mediologia è radicata alla nostra condizione, chiamiamola così, postmoderna, ipermoderna come la chiamo io, surmoderna come la chiama Marco G, eccetera. Ecco, ma naturalmente questa doppia equazione, sociologia uguale modernità classica, tra virgolette, mediologia uguale la nostra condizione ipermoderna, ha una implicazione molto forte che Alberto ha in parte, come dire, anche dichiarato, ma poi l'ha disseminata, no? Cioè che la mediologia fonda la categoria della comunicazione tecnologica come l'habitat, come il nuovo habitat, cioè i processi, cioè laddove un tempo si davano processi di socializzazione, adesso abbiamo questa sorta di dinamica reticolare dove le linee di confine tradizionali che il moderno aveva stabilito, ti reinterpreto in qualche modo, no? Pubblico-privato, ad esempio, interno-esterno, saltano, i confini tradizionali della modernità saltano, e anche realtà finzione salta, perché il moderno nasce esattamente con una, come dire, certo con un uso della metafora, tutta la polemica sulla metafora, ma poi anche con una delimitazione del campo della metafora molto preciso rispetto al campo invece della letteralità. Qui invece noi siamo dentro, all'interno di un habitat in cui diciamo, queste tre linee di frontiera che il moderno aveva instaurato, pubblico-privato, appunto, realtà-finzione e interno-esterno, in qualche modo, vengono meno, perlomeno, e ciò che decide è la shadow line, ancora una volta il crepuscolo, la linea d'ombra, la shadow, la linea d'ombra tra una dimensione e l'altra. Poi tu hai citato tante, cioè tu hai avuto dei tocchi di grande classe, perché molto sofisticati, cioè non capita spesso di vedere così, diciamo, di vedere cadere il nome di Raymond Williams. Raymond Williams è un autore chiave, lui non c'è più, tra l'altro scomparso anche lui, uno dei cultural studies, è uno dei nomi tutelari dei post-colonial studies, un autore che ha anticipato esattamente i tempi, come in parte li ha anticipati il vecchio Morin, no? E tu hai perfettamente ragione a metterlo in campo in questo modo. La metropoli come spazialità comunicativa è l'altro aspetto, dove noi abbiamo all'interno della metropoli una sorta di comunità che vive, una comunità che vive nella anche al limite nella costante distrazione, e qui questo tema della letterale della distrazione è molto importante, cioè noi la deconcentrazione, cioè il decentramento, e se si vuole anche la deconcentrazione, è una condizione fondamentale della relazione sociale, lo dico anche dal punto di vista della come dire, sviluppo della dinamica delle forme espressive culturali, no? Non c'è più possibilità di relazione senza la capacità di glissare, bisogna glissare, distrarsi, evitare, non concentrarsi su, quindi se si vuole è un ritorno in grande sullo scenario metropolitano, ecco, dell'elemento poi della dissimulazione, cioè è un'epoca molto simile, qui anche Carlo Ginzburg diceva, quando è venuto qui al tuo posto, diceva in fondo una cosa simile, viviamo in un'epoca molto simile all'ultimo scorcio del Cinquecento, un'epoca della dissimulazione, il gioco delle dissimulazioni, neopirroniana se vuoi, no? Neopirroniana e via dicendo, il postmoderno in fondo è neopirroniano, e tutto questo. Vabbè, studi che hanno fatto anche vari amici comuni, da Baudrillard stesso a Perniola e altri, questa, come dire, rivalutazione del tema della dissimulazione di fine Cinquecento, mi pare estremamente importante, ma nell'ambito dell'arte la riattualizzazione del manierismo da parte di Bonitoliva, ad esempio, no? Non c'è, nel senso, oppure con un'enfasi a mio parere eccessiva il nostro amico, come si chiama, quello dell'età neobarocca, Omar con l'età neobarocca forse ha spinto un po' troppo, molto in anticipo, molto. Però anche lui in qualche modo ha giocato su questo tipo di terreno. Ultimo punto, sociologia dell'istituzione, sociologia dell'immaginario. Sì, questo è uno dei grandi temi. Si potrebbe dire, però, insomma, forse qui si potrebbe anche azzardare una cosa che, come glossa immagina quello che tu dicevi, che istituzione e immaginario sono in fondo due lati della stessa medaglia, nel senso che entrambi si radicalizzano quando c'è il vuoto del simbolico, cioè nel senso che quando hai un ordine che è un ordine iperformalizzato, in qualche modo, come quello dell'istituzione iperritualizzato, l'altra faccia che ti consente la fuoriuscita da quest'ordine per appunto l'immaginario, il reame dell'immaginario. Ma questo significa che il passaggio da una cosa all'altra sta, è possibile in quanto vi è un vuoto che afferisce al simbolico. Detto questo, io, a differenza della maggior parte dei filosofi miei colleghi, non ritengo che la teoria del simbolico di Lacan sia più sufficiente, mentre invece da Badiou a Žižek, ma poi anche i derivati, Agamben, eccetera, insomma, non sono convinto che... Io ho un grande apprezzamento, ho appreso molto dagli scritti di Lacan, sono un passaggio fondamentale della concezione del Novecento, hanno aperto la nostra prospettiva sulla soggettività dopo Freud, però il modo in cui Lacan distingue reale, immaginario e simbolico non mi convince la sua teoria del simbolico. Questa è il nome del padre, oppure anche il rovesciamento femminista di quello, l'ordine simbolico della madre. Cioè, questo gioco è un gioco, a mio parere, molto pericoloso, perché è parassitario della teoria di un grande padre della psicoanalisi post-freudiana. Io penso che a noi tocchi invece giocare la carta di una rifondazione del simbolico, della simbolica della comunicazione, ripartendo dalle critiche Habermas, Enzensberger, eccetera, e dalla ripresa dei temi di Morin e di Raymond Williams che Alberto ci ha suggerito stasera, che mi pare una linea molto, molto importante e molto feconda. Allora, chi chiede di intervenire? Prego, vieni qua perché registriamo. Un architetto è qui, ragazzi, mica qui, di media, mi occupo di media. Sono citati gli architetti. No, non sono un architetto, mi occupo di media, insegno arte e media. Insegno architettura, la domanda che volevo fare toccava alcuni punti che hai tracciato, che erano quelli da una parte il limite, la fine dei limiti ideologici, no? Dall'altra parte il bisogno di una visione drammatica delle cose che hai citato, che hai detto alla fine. In mezzo, naturalmente, hai fatto molteplici riferimenti, anzi sei basato su un territorio che è quello della comunicazione digitale, delle reti, eccetera. Ecco, la domanda era, fra il vuoto lasciato dalla fine del limite ideologico e quello è la richiesta di una visione drammatica che necessariamente vuole dei parametri critici, eccetera, come comportarsi? Faccio un esempio, no? Il termine net art. Il termine net art ha esattamente quella, all'inizio, e purtroppo ancora oggi, quelle caratteristiche di ottimismo antidrammatico che aveva all'inizio nel 94, quando la rete è diventata fatto comune. In realtà tutto ciò che avviene da Facebook a Nanke, no, Wikileaks, Wikipedia, eccetera, ha questo vizio di fondo, ed è la cultura della rete che il termine net art lo vive come confusione di ruoli fra tecnico e intellettuale e come confusione di funzioni fra industriale e culturale, per cui le persone che inventano Facebook viene dato una patente culturale che non esiste. Allora la domanda è come ritrovare dei parametri fra un bisogno di paradigmi più severi e i criteri critici che... Di qui sopra. Ottimo, grazie. Ci sono altri che vogliono? Prego. Allora, prego, non so, venite qui. Solo una domanda volevo porre. Si può accomodare. Il problema di impostazione della problematica comunicativa, cioè della comunicazione, di formazione, della formazione al simbolico, in un ambito di progettualità democratica, se esistono grossi studi, c'è una grossa analisi, a che punto è la cosa? Simbolico e progettualità democratica. Prego, prego. Una domanda di natura attuale. Allora, in questo periodo di tempo noi stiamo assistendo nel Nord Africa e anche in altri tipi di situazioni nel Medio Oriente a una serie di rivolgimenti abbastanza drammatici di cui non si riesce a capire molto bene da che cosa provengano le fonti. Una delle situazioni a cui si è accennato spesso in televisione o negli altri articoli è la rete. Io non ho mai capito molto bene, in alcuni momenti si è enfatizzata questa importanza, in altri momenti invece è scomparsa come elemento di coscienza collettiva del cambiamento, quindi non riesco a capire molto bene. La mia domanda è questa. Effettivamente la rete, tutto quello che ci siamo detti adesso in termini di modernità, comunicazione, addirittura qualcuno l'ha presa come una situazione di antifondamentalismo islamico, quindi di rapporti con una modernità di cui abbiamo parlato fino adesso, che però è naturalmente di parametri occidentali, non so quanto applicabili. Insomma, questa rete all'interno di questa situazione ha una funzione di natura di cambiamento democratico in questi termini, in quei territori, oppure è semplicemente un'invenzione di natura giornalistica? Bene, altri interventi, altre domande? Gabriella. Proprio una domanda ad Alberto, cioè, però devo fare una piccolo racconto come premessa. A un certo punto mi è capitato, mi ricordo ero in aereo forse, avevo in mano il supplemento del fine settimana dell'autorevole Times, come si diceva un Times, il giornale, e quindi ero in una situazione obbligata, me lo sono letto quasi tutto, e quello che mi ha colpito di più era il racconto fatto da un giornalista di quello che era accaduto nella rete, cioè di un episodio accaduto nella rete, però un episodio molto sintomatico che vorrei raccontare anche ad Alberto perché è interessante. Cioè l'episodio concerneva un fatto accaduto in America, in una periferia urbana, Minneapolis, dove era accaduto che una signora, tornando verso casa, a un certo punto solleva il coperchio di un bidone, vede un gattino, solleva un coperchio di un bidone e lo mette dentro il bidone, questo gattino. Questo fatto viene ripreso dalla telecamera del proprietario del gattino, che era proprio di fronte al bidone della spazzatura, e dunque il proprietario del gattino, tornando a casa, non trovando il gattino, si mette a cercare intorno, prende la macchina disperato, insomma non lo trova, dopodiché riguarda lo spezzone di video e vede l'accaduto. Manda in rete il video che ha visto e immediatamente la signora viene rintracciata. Viene rintracciata, si capisce che è una impiegata di banca, che tornava dall'ospedale dove il padre, malato terminale di cancro, stava confinato. E questa signora viene rintracciata e sottoposta ad un processo, no? In rete si diffonde l'idea di questo mostro che ha preso un povero gattino e lo ha chiuso dentro questo bidone e così via. Viene un processo sommario, nel senso che insomma lei viene considerata intanto denunciata per maltrattamento di animali e così via. Dopodiché si sa, insomma, si riesce a ricostruire che intanto diventa una star il padrone del Gattino con la sua fidanzata, compaiono in rete, raccontano l'episodio e tutto quanto, le cose che sappiamo, no? E allora il giornalista racconta, a quel punto mi sono chiesta, ma che fine ha fatto il mostro, quella donna mostro che ha infilato il Gattino nel bidone? E quindi si è messo in mente di rintracciarla, no? Il giornalista della carta stampata tradizionale fa un'inchiesta e la trova. La trova e gli manda una mail e naturalmente lei non risponde, insomma gli manda varie mail, dopodiché alla 15ª mail lei dice, bene, sì, questo intanto erano passati un anno e mezzo da questa storia, dice, benissimo, sì, io risponderò a delle sue domande, ma solo tramite mail, perché non voglio incontrarla e così via. E allora lui tramite queste mail riesce a ricostruire quello che era accaduto. Cioè era accaduto questo, che la donna mostro che aveva messo il Gattino nel bidone racconta che dopo questo episodio naturalmente la rete l'aveva fatta diventare questa eroina negativa per cui tutta la stampa addosso, tutti che, e lei aveva dovuto mettersi in malattia dalla banca perché non poteva più neanche andare da casa, aveva messo in malattia dalla banca, a un certo punto ha dovuto cambiare casa, andare dalla madre perché appunto non riusciva più ad andare a casa. Il direttore della banca dopo un mese di questa cosa l'aveva licenziata, per cui lei, non potendo più pagare l'affitto, aveva perso la sua casa. Nel frattempo il padre era morto in ospedale e lei si ritrovava in questa casa con questa madre, questo padre morto. E la cosa interessante è che dopo tutta questa serie di domande il giornalista gli chiedeva tramite le mail, ma perché ha fatto quel gesto? Insomma, la sua vita completamente rovinata, ingrassata, diventata obesa, senza più lavoro, possibilità di trovare una casa nuova, insomma, emarginata con questa madre vedova in casa. E dice, ma perché lei ha fatto quel gesto così? E lei, sempre tramite queste mailario fra di loro, dice, io non mi ricordo niente, non mi ricordo perché ho fatto quel gesto. Allora il giornalista riflette sulla e cerca di darsi delle spiegazioni, dopodiché parla con un amico psicoanalista e lo psicoanalista gli dice, secondo me lei ha buttato nel bidone della spazzatura il padre malato terminale di cancro. E quello è il gesto, l'acting out che lei ha fatto. Ecco, l'episodio mi sembra un po', insomma, come dire, testimoniare di questa differenza che Giacomo considera obsoleta tra reale, immaginario e simbolico, in cui l'elemento del simbolico, questo è, sono d'accordo, è davvero l'elemento indispensabile, in questo caso è l'analista che offre, no? La chiave, perché il resto se no rimane schiacciato fra reale, esattamente fra reale e immaginario, no? Ed è questo la tenaglia da cui solo l'operazione simbolica ci può liberare. Altri, prego. Non so se aveva alzato la mano lei o lei, comunque va bene. Questa sua tesi in qualche maniera che tutti oggi possono avere, immaginare di avere delle vite possibili al di fuori delle vite che fanno, questa immaginazione delle vite possibili che è una sua un suo argomento. Ecco, la mia domanda è più o meno una sintesi di questo. Non c'è nessuno che viva fuori da questo habitat che tu hai descritto e che Giacomo ha riassunto. La vedi come la vede un po' a Padurai o no? Volevo chiederti questo. Prego signora, venga. Nel tracciare il filo rosso di questa genealogia di pensiero, di riflessione che il professor Abruzzese ha fatto, nel tracciare questo filo, alla ricerca di un filo rosso del pensiero, della riflessione sui temi affrontati, lei è cominciato, ha parlato, se non sbaglio, se ho ben capito, da d'accordo, vabbè, passando poi per Nietzsche, no, dal poeta, da Baudelaire, via, il grande, da Baudelaire, è passato poi attraverso, se non sbaglio, Nietzsche, poi ha toccato McLuhan, poi ha toccato ancora Bataille, Benjamin Bataille, fino a Baudrillard, eccetera. E però non ha citato, per esempio, un filosofo che secondo me si è occupato molto di questa tematica, ha dato un grande contributo, come per esempio Jacques Derrida. E Derrida su questi temi ha speso moltissimo della sua riflessione, lasciando, a me sembra, molti, molti temi aperti, cioè con un lavoro su cui probabilmente c'era l'input e la speranza che questa apertura proseguisse. Tutti i temi che lei ha elencato, da quelli della responsabilità, la comunicazione come habitat attuale, eccetera, mi pare che in Derrida, oppure quelli anche del corpo, per esempio in Jean-Luc Nancy. Ecco, le chiedevo come mai questa omissione? Per la cronaca, Derrida e Nancy sono... Derrida è stato un carissimo amico mio e Nancy tuttora un caro amico, quindi non c'era... Da parte nostra non c'era, solo che Baudrillard hanno collaborato strettamente, ma comunque, no, ma apprezzo molto il ricordo di entrambi, cioè la menzione di entrambi. Altre domande? Prego? Prego? No? No? Sì o no? Come no? Siccome già ci sono tantissime cose, non volevo disturbare. Abbiamo tempo. No, volevo solo dire una cosa. Da un lato il discorso della metropoli come spazio della comunicazione ovviamente mi convince molto, però metterei anche in evidenza il suo opposto, cioè la metropoli come la sede del silenzio e dell'incomunicabilità, nel senso che secondo me la modernità alla sua origine, diciamo, è proprio caratterizzata da un discorso di contrasti, di opposizioni. Pensiamo solo alla frase di Marx: ogni cosa tiene in sé il germe del suo contrario, cioè è proprio questa una delle caratteristiche della modernità. Quindi pensiamo anche a tutta la letteratura e ai grandi narratori della metropoli, penso a Musil, ma ovviamente a Baudelaire, a tutti quelli che Alberto ha citato, ma come abbiano messo in evidenza proprio l'insensatezza della comunicazione e l'impossibilità della parola a comunicare. Poi l'altra cosa che volevo dire è che la modernità, ma Alberto ne ha anche parlato, ne ha accennato, è secondo me significa l'irruzione del corpo sulla scena. Allora mi interessava capire, ne abbiamo parlato molto tempo fa con Alberto, è stato lui poi la persona che un po' mi ha indicato questa strada, cioè come il postumano, che invece stasera non è tanto venuto fuori, tranne nel discorso dell'umanesimo, ma proprio il postumano come irruzione del corpo nella modernità attuale possa fornire delle risposte eventualmente a questo legame tra modernità e comunicazione. Bene, grazie. Alberto, allora, coraggio. Ma dunque, beh, in una parte delle cose che ho detto Giacomo valgono, cioè insomma, senso, ha reso più chiaro alcune delle cose che tentavo di dire io. I filosofi hanno sempre questo grande vantaggio. I filosofi sanno parlare, è una cosa. Io faticosamente, però è filosofo proprio è magnifico. Dunque, la cosa che vorrei riprendere sua è il riferimento sì al crepuscolo, tanto per dire che appunto mi è tanto presente questa idea del crepuscolo che il prossimo saggio che uscirà è intitolato Il crepuscolo dei barbari, perché riprendo quell'intelligente saggio peraltro di Baricco sui barbari e appunto imposto la questione piuttosto sull'idea che è quella che, per cui proprio se davvero la modernità sta, no, precipitando diciamo in polvere o come vi pare in acqua o altro, forse questa dicotomia civilizzato-barbaro va abolita e quindi invece di giocare su questa idea che il barbaro è quello che deturpa il civilizzatore oppure è quello che rianima il civilizzatore, no? Cioè gli dà nuova linfa, è meglio sbarazzarsi di questo concetto, no? Cioè, ovviamente ci metto molto per sbarazzarmene, forse non me ne sono sbarazzato, però quello è il tentativo. Beh, la questione, appunto ripeto, tanto le cose che hai detto, tutte, cioè, mi fa piacere che hai ripreso questo concetto di distrazione, perché appunto è un concetto secondo me fondamentale, nel senso Benjamin quando l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica parte, cioè, no, parla dello pubblico, della nuova dimensione del pubblico di fronte diciamo alla piattaforma espressiva costituita dal cinema, appunto no, annuncia che rispetto ai competenti invece sta emergendo la distrazione, il pubblico dei distratti, che questa è l'indicazione poi fondamentale per seguire la mia traccia dell'abitare, no? Come sinonimo proprio della comunicazione, e cioè lui dice com'è in architettura, com'è in architettura anche per il cinema, è la distrazione quella che... E va bene, sì, tutta questa questione complicatissima, quindi proprio questa storia del simbolico è complicata. Credo che alcuni passaggi del discorso, ma probabilmente tu ne hai accennato, sono relativi al tema che sempre voi filosofi in genere affrontate, e cioè la differenza tra il simbolo e l'allegoria, e quindi no, insomma, tutti i temi, anche questi beniaminiani, beniaminissimi, ma insomma che poi sono stati ripresi da molti di voi. Sulla questione di Lacan non mi pronuncio perché io ancora sto scontrandomi sulla difficoltà di capirlo, e quindi finché non avviene l'illuminazione nella lettura di Lacan, diciamo, lo acchiappo a Brandelli, sarei più cauto nel ragionare su. Certo è che, dato che poi fa parte anche di letture lacaniane, no, eccetera, questo tema del vuoto che tu hai evocato, vuoto del simbolico, eccetera, credo che sia la questione, no? Nel senso che, perdonatemi, per un rapido ci vuole molto arrivarci, però insomma dal vuoto si può facilmente arrivare alla morte, e non a caso il tema sempre di Baudrillard è quello di fondare, no, sulla morte diciamo, lo scambio simbolico, quindi insomma sono temi molto interessanti, ma insomma, no, per questa volta li lasciamo sospesi. Taiuti mi chiede varie cose a cui io saprei rispondere forse con ecco, non vorrei far credere che l'appello alla necessità di assumere una visione o teoria diciamo tragica del mondo sia il richiamo a dover essere rigorosi, anche se ovviamente diciamo il mio appello alla necessità di una classe dirigente poi in qualche modo può richiamare questo termine, ma il fatto del riferimento al tragico secondo me è proprio diciamo, cioè, insomma, cioè è il romanticismo che innesta la questione, la china progressiva, per cui dal tragico si passa alla commedia, al romanzo, eccetera, ecco, che sono tutte forme dialettiche appunto dello sviluppo della società moderna, no? Sono le grandi narrazioni, ecco, le grandi narrazioni nascono sul fallimento del soggetto di fronte alla natura, e quindi sul progressivo, insomma tutto Lukács c'è, cioè, là, no? E via via sulle narrazioni del romanzo, cioè. Il tragico mi sembra revocare la possibilità, non è nemmeno un ragionamento particolarmente originale, no? È soltanto volere dire che mi sembra sia oggi sia meglio revocare questa cosa che per effetto riflesso da parte delle culture manageriali, no? Eccetera, cioè questa cosa di aver scoperto che tutto è narrazione, no? Storytelling, eccetera, mi sembra una pessima cosa, non lo sapevamo, abbiamo sempre saputo che tutto sono narrazioni, no? Quindi insomma, però appunto che invece ci sia qualcosa di intelligente in uno dei tanti autori che io naturalmente mi sono scordato di citare, cioè che la fine delle grandi narrazioni insomma abbia, contenga in sé un elemento, diciamo, di interesse per una discussione sulla comunicazione, che non dimentichiamoci, per tutto il corpo centrale che va dall'Ottocento ai giorni nostri è in gran parte fatta di fiction, quindi è fatta di narrazioni. Poi le domande qui. Ah no, e l'altra è su appunto cosa fanno le reti net art, eccetera, i contenuti delle reti e così via, no? E se mi sembra che ci sia un qualche elemento di novità rispetto alla visione invece da commedia, appunto, no? Che ha caratterizzato il rapporto positivo, diciamo, con le reti, eccetera. Ma chi sta nelle reti non c'è niente da fare, eh? O è un entusiasta o è un diciamo un uomo d'ordine, un uomo all'antica, come dire, no? Cioè la rete si fresta a queste due dimensioni, no? E quindi è popolata di chi tenta di trasgredire. Sì, forse è vero, però c'hai ragione, cioè, poi ci sono le sfumature, perché le sfumature sono quelle che contano di più, e quindi credo che insomma il tuo problema sia da riportare forse piuttosto su quel grande dibattito che pone la questione. Sì, abbiamo le reti sono sofisticatissime, si stanno espandendo sempre di più, sono una cosa eccezionale, no? Eccetera, ma non ci sono i contenuti sono gli stessi di prima, cioè c'è semplicemente un trasferimento dei contenuti delle precedenti piattaforme sulla rete. Non interamente così, perché appunto non è interamente così, ma volendo radicalizzare il discorso, esattamente come ci sono delle figure anomale nella società pre-digitale, queste figure anomale o si stanno trasferendo, ma credo che sia meno frequente quello, le figure anomale delle culture e dei territori pre-digitali restano lì, perché forse proprio il loro essere anomale le inchioda, diciamo, no? Al territorio d'appartenenza, e semmai le reti sollecitano l'ingresso di nuove figure anomale, no? Di nativi che sono più, no, portati ad assumere. Oh, le domande sulla progettualità democratica è quello. Non lo so, quello che posso dire sinceramente è che dentro una critica radicale dell'umanesimo c'è una critica radicale della democrazia, e quindi insomma se ne esce. Questo è l'altro punto debole nostro, noi non sappiamo pensare una critica radicale della democrazia. E quando io dico separiamo quello che siamo costretti a fare da quello che pensiamo in realtà, intendo un poco questo, non è detto che criticare radicalmente la democrazia significhi non essere, come dire, militare contro la democrazia, quella reale, no? Assumerei questo comunque con una certa cautela, no? Cioè, però dico, non è necessariamente questo, l'importante è appunto mettere nel mazzo, diciamo, dei valori della modernità che hanno prodotto una società tragica. Adesso ritorno un momento su questa cosa, no? Perché è importante. Ci metterei anche la democrazia. Sulla questione del pensiero tragico c'è anche un fatto. Esaminiamo qualsiasi delle teorie occidentali, oppure quelle orientali che si contrappongono, no, all'Occidente, tutti i fondamentalismi, oppure la cultura democratica, che è una forma, poi del resto una variazione, diciamo, di un pensiero fondamentalista, insomma, poi non stiamo lì a sottilizzare molto. Se noi analizziamo tutto ciò, ci accorgiamo di qual è straordinariamente, di come sia straordinariamente forte la capacità di rimozione su quello che il mondo reale, cioè circa i, tutto insomma, la metà, ma forse i tre quarti di esseri umani del mondo, vive in condizioni per cui tutti i contenuti dell'Occidente, cioè, non hanno assolutamente nessun senso, sono tutti preumani, letteralmente preumani, cioè c'è soltanto il dominio della morte e del dolore, e questo è qualcosa di impressionante, di veramente impressionante. Noi abbiamo una capacità di rimozione straordinaria. Tenete conto che quando noi andiamo al cinema e ci divertiamo, e quel cinema è così straordinariamente, no, spettacolare, suggestivo, ipnotico, è vero che fa parte della nostra capacità di rimozione, ma però dentro quel cinema c'è molto di più in quanto riferimenti a quel resto di mondo, di quanto ci sia invece, no, nei contratti sociali, nella comunicazione sociale, nel linguaggio di impresa, eccetera. L'altra domanda nella cornice democratica era l'informazione delle reti, eccetera, e insomma che cosa accade, ma io tendo, ritengo una buona, che sia una buona regola, diciamo, ponendosi interrogativi sulla rete, che cosa accada di nuovo nelle reti, su internet, eccetera, sia sempre quella di fare uno sforzo un po' che cercare di spostare il problema che ci poniamo a prima delle reti. Proprio semplicemente riflettere, e riflettere se davvero c'è una differenza, cambia, c'è una differenza fondamentale, ma non è che, come dire, no, quello che accade con le reti è assolutamente, no, diverso da quello che è potuto accadere e che accade, no, fuori dalle reti. Quindi, ad esempio, tutti i problemi relativi al giornalismo sulle reti in riferimento anche appunto a una complessificazione estrema dei conflitti mondiali, eccetera, è semplicemente una progressiva variazione delle regole del giornalismo, in cui rispetto alle deontologie del giornalismo a stampa si arriva ad altre dimensioni in cui alcune regole sono indebolite. E quindi, diciamo, c'è ancora un territorio, potremmo semmai dire, che che questo magma che rende possibile forme di comunicazioni molto aberranti rispetto ai modelli e ai paradigmi precedenti, questo magma per il momento è ancora, no, in movimento, è ancora aperto, possono accadere molte cose nelle reti. Con appunto il telefonino che manda un'immagine, eccetera, che rendono estremamente più mobile, più impreviste le reti, e danno occasioni di mobilitazione, di rappresentazione, eccetera, che sicuramente il sistema informativo attuale non consente. Non consente. Poi ripeto, che questo possa essere la legge del territorio delle reti, non lo so, no? La regola, non lo so. Cioè, sappiamo bene quanto sia continua, e in regimi di particolare controllo, quanto queste regole, no, poi vengono evocate. Naturalmente c'è chi dice, forse giustamente, che però la natura stessa di queste reti è che non c'è niente da fare, non c'è regola che controlli. Però è anche vero che nei precedenti regimi comunicativi, nonostante ci fossero regole che normalizzavano, no, davano norme, eccetera, ci sono sempre state eccezioni e deroghe alla regola. Quindi la vedrei, cioè, ne coglierei tutto lo specifico, ma tenterei sempre di non farne qualcosa, e questo, no, io penso valga un poco, no, per la vicenda che tu hai raccontato, che però è molto interessante, nel senso che è una vicenda molto specifica e che però appunto poteva accadere, no? Semmai sono queste le cose che possono essere, cioè, allora, un episodio come quello che hai raccontato è difficile che potesse accadere in un territorio urbano complesso, dove appunto la visibilità di un singolo evento è assai ridotta, no? Il contesto urbano tradizionale, difficile che potesse accadere. Poteva accadere benissimo però in una condizione di villaggio, in un villaggio sarebbe accaduto più o meno la stessa cosa, insomma, qualcuno raccontava la cosa e dopodiché naturalmente la poveraccia che aveva avuto questo gesto, cioè, cambia il tempo, cioè, ma cambia anche l'intensità. Sì, cambia, no, cambia tanto, però insomma anche in un villaggio la simultaneità è quasi vicina a quella della rete. Beh, non una città, può essere lenta, ma è un villaggio, insomma, basta che quello bussi a una porta, sì, però quell'altro a una porta. Ci sono tanti interlocutori che hanno temporalità diverse nel villaggio. Sì. C'è la vecchia, il giovane, che conosco la signora, e poi che la conoscono, quelli che non hanno ancora capito. Ci sono tante temporalità che rendono le relazioni umane diverse, quelle face-to-face. Non lo so. Sarebbe da verificare, c'è molto del faccia a faccia nella rete, quindi non so. Sì, anche questo è un altro argomento. Sembra che ci sia il faccia a faccia, invece è diverso. Ma questo fa parte. Faccia a faccia che noi conosciamo. Chi è che mi ha fatto la domanda? No, questo qualcuno mi ha fatto. È la nostra. Ci arrivo da Valeria, cioè nel senso che contemporaneamente alla metropoli come appunto spazio aperto, no, in cui cadono i confini, c'è quello del silenzio e così via. Insomma, io non sono relativamente convinto, diciamo, di queste cose, no? Cioè l'idea di stabilire delle differenze tra la rete e gli altro tipo di territori. A me convince assai poco, se finché mi si dice che la rete offre territori sconfinati, è la nuova frontiera, insomma. Quando è nata la rete, gli americani più reazionari e più duri hanno detto: meraviglioso, è rinata la frontiera. Questo dissero. E noi c'era parso strano, no? C'era veramente parso strano. Poi invece avevano ragione loro, no? Si era riaperta la frontiera. Ma insomma, che ci siano differenze in questo. Però è un tema interessante, è un tema, diciamo, da discutere. Sì, mi sono trascurato di parlare di tanti autori, Derrida e Nancy sono sicuramente di questo genere. Molto spesso su alcuni autori io sospendo di citarli perché, insomma, io organizzo un discorso che è schematico, e mi serve che sia schematico, perché schematico, no? Cioè, insomma, a me interessa arrivare al punto d'arrivo del discorso. Tutto sommato la procedura, saggistica, non è saggistica, perché anzi il saggio invece taglia con l'accetta le cose, no? Ma invece la procedura teorica, diciamo, che ha bisogno di ricostruire l'intero corpus del discorso, no? Per arrivare a questa mi appassiona di meno, oltretutto che il fatto che molto spesso alcuni autori sono sufficientemente complessi, e quindi io molto spesso non ho ancora deciso in realtà, o non ho capito in realtà da che parte stiano, cosa che per me è importantissima. Ecco, perché Derrida, no, ma le spiego perché non potevo mettere Derrida in quella sequenza, non posso mettere Derrida in quella sequenza perché Derrida è l'esempio di una forma di pensiero che è connaturata, come tanti altri straordinari, personaggi, per citarne uno, Blanchot, è proprio connaturata alla scrittura e al meccanismo in cui non interessa una verità, ma interessa continuamente il discorso sulla verità, che quindi è una cosa interessantissima. Ma in qualche modo, insomma, mi porterebbe a ragionare, no? di cose diverse. Insomma, sulla questione del silenzio, ma questa è una vecchia questione, Valeria ha partecipato, mi ha stimolato, insomma, abbiamo fatto molte cose insieme che avevano in genere sempre il comune interesse per la metropoli. C'è un filo rosso che ci divide costantemente, in quello in cui Valeria tiene di più, diciamo, a salvaguardare il pensiero negativo contenuto nella tradizione moderna, e io tendo di più a ritenere il pensiero negativo come l'astuzia maggiore della modernità. Tutto lì, insomma, no? Valla a risolvere questo problema. Infine, l'irruzione del corpo, mi diceva che non è vero, non ne ho parlato, ma lì, insomma, ho trascurato. Ecco, qui sì mi sono scordato, per essere schematico, diciamo, no, avrei dovuto essere rigorosamente schematico e dovevo ricordarmi di fondare la nascita della modernità e il discorso dei moderni sul corpo da A, facendo riferimento a due personaggi che inaugurano il rapporto della modernità con il corpo, che sono Bentham e Besmer, no? E che quindi sono, da un lato, appunto, tutte le teorie fondate sul vedere il corpo e il controllo quindi sociale, e dall'altra parte invece tutte le teorie legate alle pratiche corporali. E quindi, insomma, tra l'altro questo è un discorso che può dare giustizia anche di una distinzione tra il pensiero maschile e il pensiero femminile, non a caso a far carne da macello nelle esperienze che cominciano con Mesmer e vanno avanti poi con vari altri, è il corpo femminile, no? Eccetera, quindi, quindi questo è vero, insomma, no? Quelli sono i due proprio. Dopodiché tutta la modernità sino ancora ad oggi è nell'intreccio di queste due figure che fanno, no? Che introduco. Cioè, perfetto, credo di aver essermi ricordato. Oh, sì! Ma io quel poco che ne so dire qua. Quel poco che ne so dire però è quanto avevo accennato nella mia relazione, cioè questo problema dei media e della democrazia. Dei libri anche curati da te, dai tuoi allievi, sì, queste cose. Sì, sì, ma a parte questo l'avevo accennato, ma non posso. In una... Quello su media e potere. Sì, no? in questa relazione l'unica cosa che insomma non mi premeva a dire è che nel cuore delle sociologie della comunicazione è stato costantemente posto il problema su un determinato versante, ho detto soltanto due autori, Habermas e Enzensberger, ma sono un'infinità, e tuttora ancora molti si muovono in questa direzione, in cui il problema è decidere se di volta in volta se i media sono stati un detonatore di democraticizzazione della vita sociale oppure sono stati un inibitore. Quella è la letteratura, diciamo, di riferimento. Molto bene, io ringrazio Alberto perché in questi seminari noi abbiamo lo scopo fondamentalmente di creare una catena di rimandi tra una domanda e un'altra, un problema e un altro. E la risposta, come diceva un grande filosofo della nostra generazione, Bob Dylan, "The answer is going in the wind", la risposta se la porta via il vento. Magnifico.